Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oggi il voto di fiducia sulla manovra, poi nel pomeriggio la direzione del Partito Democratico, ancora incerto se Renzi andrà al Quirinale oggi o venerdì. Intanto i tempi per il voto sembrano allungarsi, la Consulta deciderà a fine gennaio sull'Italicum, Mattarella vuole una nuova legge elettorale prima delle elezioni. Voci poi smentite di una richiesta di intervento dell'ISM europeo per Monte dei Paschi, oggi il CDA, intervento statale più vicino, il titolo strappa in borsa, al momento più 8,6%. In Siria i ribelli si sarebbero ritirati dalla città vecchia di Aleppo, secondo la BBC, ma chiedono una tregua umanitaria di 5 giorni. La Francia accusa la Russia di ostruzionismo. Arrestati come scafisti dopo uno sbarco a Pozzallo, sono liberi. La motivazione non è una professione, ma sono trafficanti occasionali e obbligati. 7 milioni di italiani in partenza per il ponte, dice Federalberghi. Il fine settimana si preannuncia di bel tempo stabile. Milano attende la prima della scala. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il 349-238-66 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it. Se invece ci volete scrivere, in primo piano, oggi e come sempre in questi giorni, la crisi politica seguita al risultato del referendum. Iniziamo dal Senato, dove si sta votando, dove si inizia a votare tra poco la fiducia sulla manovra. Facciamo il punto con Andrea Viali, anche per avere un quadro di agenda di giornata. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Una giornata che potrebbe essere cruciale per questa crisi di governo. Si conoscerà attorno alle 14.30 il risultato del voto di fiducia chiesto al Senato dal governo sulla legge di bilancio, che poi verrà approvata in via definitiva entro stasera. Si tratta questo di un passaggio importante voluto dal presidente Mattarella per mettere in sicurezza i conti pubblici prima di aprire formalmente questa crisi. L'attenzione, lo dicevi, si sposterà poi sulla direzione del Partito Democratico, convocata alle 17.30, una riunione nella quale, a quanto sembra, Matteo Renzi indicherà due ipotesi dopo la sconfitta al referendum: o un governo di responsabilità nazionale oppure le elezioni anticipate. Secondo indiscrezioni arrivate da poco dal Nazareno, l'incontro potrebbe aprirsi e chiudersi con le comunicazioni del segretario, mentre il confronto interno, il dibattito con la minoranza interna, potrebbe essere rinviato ad un secondo momento. E ancora non è chiaro se dopo la direzione Renzi salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni annunciate domenica notte. Sembra più probabile però che lo faccia venerdì, poi Mattarella a quel punto avvierà le consultazioni. Il richiamo che è arrivato ieri dal Colle è che non è concepibile andare al voto in questo momento senza una legge elettorale omogenea per Camera e Senato. Simone. E grazie Andrea Viali. Dunque, facciamo il punto proprio su questo, sugli scenari che si aprono, e lo facciamo con Lina Palmerini del Sole 24 Ore. Lina, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, che cosa può succedere a questo punto? Mi sembra che l'ipotesi che si vada al voto presto, come forse sperava Renzi all'inizio, sia caduta, no? Allora, rimettiamo ordine. Il voto presto è un po' la scadenza che ha detto Alfano, febbraio. È stata una risposta anche alle pressioni di chi ha vinto questo referendum, cioè 5 Stelle, la destra di Salvini, che chiaramente ora chiedono le urne subito. La reazione sia di Renzi che di Alfano, della maggioranza, è stata quella di sfidarli, cioè non possono essere, come dire, rappresentati come quelli che vogliono restare incollati alla poltrona. Quindi anche loro sono entrati in questo gioco tattico, di convenienze politiche. Dall'altra parte però c'è una posizione istituzionale molto chiara e anche, come dire, ragionevole, che ha un fondamento, perché il discorso di Sergio Mattarella è: non si può andare alle elezioni senza avere una legge elettorale omogenea per Camera e Senato. Il grande vuoto legislativo oggi è esattamente questo, perché l'Italicum è stato disegnato soltanto per la Camera, perché si assumeva la fine del Senato. Questa fine del Senato non c'è stata, quindi abbiamo un Italicum che vale soltanto per la Camera, e al Senato c'è un altro sistema elettorale, questo nome Consultellum, e quindi con questo doppio sistema è impossibile andare alle elezioni, si creerebbe poi una difficoltà successiva nella formazione di un governo e nella formazione di maggioranze. E questo è un po' il rovello. Quindi in questo tempi momento. Dettati, Lina, da una parte dal Presidente della Repubblica, evidentemente come è normale che sia e come è normale che sia, visto che sono le sue prerogative, e dall'altra parte anche dalla Corte Costituzionale, che si riunirà il 24 gennaio per decidere sull'Italicum, no? Sì, il 24 gennaio è la prima data, poi la decisione potrebbe esserci anche nei giorni successivi, non lo sappiamo. Quello è intanto un paletto temporale. Dopodiché raccontiamo però che c'è ancora in queste ore uno scontro tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Perché? Perché la prima richiesta di Matteo Renzi è stata resta un governo dimissionario che fa la legge elettorale e poi va subito al voto. Perché il timore di Matteo Renzi è di avere un altro governo che poi si sa quando cominciano, si sa quando finisce e che diciamo lo butti un po' fuori dalla gara e che non gli consenta neanche di capitalizzare questo 40% o non so, i voti suoi magari saranno meno. Ecco, quindi lui ha questo timore e dall'altra parte il Quirinale dice no, bisogna assolutamente fare un governo vero perché c'è la legge elettorale da fare. Ma siccome l'Italia è un paese ancora problematico, con un'emergenza bancaria, con una probabile manovra correttiva da fare chissà quando, serve un governo non dimissionario, ma pienamente in carica, perché un governo dimissionario, per esempio, non può fare decreti, non può chiedere la fiducia, quindi può fare un'ordinaria amministrazione, ma l'Italia forse non è un paese da ordinaria amministrazione. Almeno non in questo momento. Io ti ringrazio, grazie a Lina Palmerini del Sole 24 Ore per questo punto che ha citato un altro elemento importante, che è il problema delle banche, a partire da Monte dei Paschi. Quindi andiamo proprio su questo tema, vedendo anche come stanno andando i mercati oggi con Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Buongiorno. Per il titolo di Rocca Salimbeni più 8%, un effetto trascinamento molto consistente anche sugli altri titoli del settore bancario. Il tutto porta Milano a guadagnare un punto, in mattinata andavano anche meglio le cose, questo punto percentuale si aggiunge al più 4,5% già registrato ieri, c'è proprio una situazione euforica e un mercato che a quanto pare ha già completamente abbandonato tutte le preoccupazioni sull'esito del referendum italiano e le sue implicazioni politiche. Il tema bancario, dicevi Simone, il mercato si concentra sulle ipotesi alternative di salvataggio appunto di Monte dei Paschi che si stanno facendo sempre più concrete. Intanto la banca, lo abbiamo detto più volte ieri, sta trattando con la Banca Centrale Europea per una proroga per la ricapitalizzazione da 5 miliardi che deve fare al più presto, la scadenza è fissata a fine anno, quantomeno MPS vorrebbe prendersi un altro mese, domani decide a questo proposito la vigilanza della BCE, peraltro domani si riunisce anche il direttivo della BCE, Draghi dovrà dire anche altro, ma adesso ci arriviamo. C'è poi anche probabile, e quantomeno secondo alcune ricostruzioni di stampa, l'ipotesi di un intervento pubblico con modalità ancora da definire, un intervento che consisterebbe in un acquisto da parte del Ministero dell'Economia delle obbligazioni subordinate retail che sono ancora in circolazione, che verrebbero convertite in equity, quindi in azioni. E poi l'altra ipotesi su cui si soffermava a lungo la stampa questa mattina, scrive che il Ministero del Tesoro Padoan potrebbe chiedere all'Unione Europea un prestito da 15 miliardi di euro per salvare MPS, ma non solo, l'intera pattuglia delle banche in crisi e quindi anche Carige, Pop Vicenza, Veneto Banca. I soldi li dovrebbe mettere il fondo salva stati, ma su questo sono arrivate fior di smentite questa mattina non solo dal Ministero del Tesoro ma anche dallo stesso fondo salva stati. In tutto questo ci si è messo anche il governo tedesco che sulla stampa ha fatto sapere, sulla stampa tedesca, che una ricapitalizzazione di tipo precauzionale non sarebbe una strada opportuna appunto da praticare. Comunque tutto questo mette un fermento molto forte, dicevamo, al settore bancario, crescono tutti i titoli, Popolare dell'Emilia Romagna più 7,5, Unicredit più 6, Generali più 5, Banco Popolare più 4, Pop Milano più 4, quindi al momento l'euforia c'è, ce la teniamo, favorita anche dallo spread che è a 154 punti base, il mercato corre grazie però anche ai nuovi record toccati da Wall Street proprio ieri per il Dow Jones, pensa che sia trattato Simone dell'11° consecutivo dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane. È tutto. E grazie dunque a Deborah Rosciani. Sui mercati torneremo come sempre alle 13:30. Ci spostiamo in Siria adesso con l'aggiornamento della situazione ad Aleppo. La battaglia di Aleppo è giunta ormai alla sua conclusione. Le truppe di Bashar al-Assad, sostenute dall'aviazione russa, hanno ormai conquistato l'intera città vecchia, strappandola ai ribelli. La notizia arriva dall'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. L'80% di Aleppo è ormai nelle mani dei lealisti. La presa della città vecchia si aggiunge ai quartieri già conquistati. Secondo Sana'a, agenzia ufficiale di Damasco, sono cadute sotto il controllo dei lealisti le zone di Agyur e Bab al-Adid a nord della cittadella. Ancora sotto il controllo dei ribelli è rimasta soltanto la parte sudorientale di Aleppo. Combattimenti anche a Damasco, dove è morto un consigliere militare russo, il colonnello Ruslan Galinskij. È la terza vittima russa in una settimana dopo la morte di due infermiere per un attacco con razzi all'ospedale da campo di Aleppo. Quasi nelle stesse ore a Damasco circa 3.000 miliziani ribelli si sono arresi a Khan al-Sheikh, alla periferia della capitale. Secondo l'agenzia russa TASS, che ha diffuso la notizia, è stata loro garantita l'uscita dalla città. Valentina Furlanetto, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia per parlare dell'arresto di un sindaco in Calabria per corruzione. C'è anche il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, tra gli arrestati dell'operazione che i carabinieri hanno eseguito oggi in provincia di Reggio Calabria, ma anche a Roma, Urbino e Ascoli Piceno. Crupi, posto ai domiciliari, è accusato di corruzione per l'appalto per la raccolta dei rifiuti nel suo comune. Ai domiciliari sono finiti anche il vice sindaco e l'assessore al turismo di Brancaleone, Giuseppe Benavoli e Alfredo Zappia, e l'ex sindaco di Melito Portosalvo, Giuseppe Iaria. Si scopre anche che le elezioni del 2014 del comune di San Lorenzo, sempre nel Regino, sarebbero state fortemente condizionate dalle pressioni della Cosca Paviglianiti, colpita questa mattina insieme alla Cosca Iamonte dall'operazione Ecosistema, coordinata dalla DDA Regina. Coinvolte in tutto 18 persone, tra cui dirigenti comunali e della provincia ed imprenditori. In tutto 14 gli arrestati, accusati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, estorsione, illecita concorrenza, falsa testimonianza, corruzione e detenzione porto illegale di armi. Francesco Stratico, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Una notizia importante appena battuta dalle agenzie, che riguarda la vicenda di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio scorso e trovato morto il 3 febbraio successivo lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria. E i magistrati della Procura Generale egiziana hanno consegnato alla Procura di Roma tutta la documentazione richiesta. Quello che emerge è un comunicato congiunto emesso dalle due autorità giudiziarie, appunto la Procura di Roma e del Cairo. Sicuramente vi sapremo dare maggiori dettagli nell'arco della giornata. Veniamo a Milano, tradizionale sfilata di cariche istituzionali, la prima della scala di quest'anno non lo sarà proprio a causa della crisi, resta un appuntamento importante, la seguirà la nostra Marta Cagnola. Buongiorno Marta, vai. Sì, buongiorno Simone. Tanti forfè erano abbastanza inevitabili perché la crisi di governo impedisce l'arrivo che era stato annunciato di Piercarlo Padoan e Dario Franceschini. Non ci sarà nemmeno il Presidente del Senato Piero Grasso, non ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A questo punto chi siederà nel palco reale? Probabilmente il prefetto Marangoni, con al suo fianco forse l'ambasciatore del Giappone e l'ex re di Spagna Juan Carlos. Ci saranno ovviamente le autorità locali, guidate dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Come l'anno scorso, dispositivi di sicurezza imponenti, metal detector all'ingresso, fuori previste, ma chissà, forse per il forfè degli esponenti del governo appena caduto, le tradizionali proteste forse appunto depotenziate saranno quelle di USB Lombardia e del centro sociale Cantiere. Lo slogan doveva essere no alla sfilata della cassa, ma a questo punto saranno davvero in pochi quelli che sfileranno. Ci sarà invece una rappresentanza di persone che arrivano dai paesi colpiti dal terremoto e questa è una presenza molto significativa. Ti ringrazio, grazie Marta, e dunque vedremo come andrà questa sera questa prima della scala. Si apre comunque un lungo ponte iniziato già oggi in realtà per i milanesi, visto che appunto è Sant'Ambrogio patrono della città. Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ciao, che cosa dobbiamo aspettarci per questo fine settimana? Buongiorno Simone, ma guarda, buone notizie tutto sommato: alta pressione sull'Italia, quindi in gran parte del nostro paese sarà un ponte all'insegna del sole, si parte in realtà con molta instabilità all'estremo sud. Oggi la Sicilia, la Calabria e anche parte della Sardegna vedranno degli acquazzoni, domani ancora qualche piovasco in Sicilia potrebbe insistere, poi migliora anche da quelle parti. Però il rovescio della medaglia è la nebbia. Al nord, in pianura padana, nebbioni nelle prossime giornate, nebbia a tratti anche piuttosto insistenti, dove le ritroveremo più fitte, anche freddo, perché nel pomeriggio in molti casi non si riuscirà neanche ad andare oltre i 5-6 gradi. Però ti ripeto, nel resto d'Italia tanto sole, clima anche piacevole nel pomeriggio, domenica arriva qualche nuvola in più tra la Liguria e la Toscana e Lazio, ma in realtà con ben poche conseguenze. Allora Paolo, io ti ringrazio e ovviamente buon fine settimana a chi sta partendo e sta per partire, baciato a quanto pare, almeno in parte dal sole. Veniamo allo sport invece, a partire dal calcio, dalla Champions. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, grandi notizie, io abito in Bassa Padana piena, quindi il sole lo vedrò col binocolo. Comunque, niente, parliamo di buone notizie, appunto come diceva Corazzone, quella del Napoli, che torna ad essere un grande Napoli, vince 2-1 a Lisbona in uno stadio storico, in un santuario del calcio europeo come lo stadio Daluz. Bastava un pareggio, invece Napoli vince questa partita e vince il suo girone. La partita la gira l'ingresso di Mertens nel secondo tempo al posto di un Gabbiadini al solito piuttosto nebbioso, diciamo così, e comunque visto, Mertens, siamo in tema, sì. Visto che siamo in tema, Mertens entra e serve un assist a Caleon che segna un gol meraviglioso e poi si mette in proprio e segna il gol del 2-1. Questa sera tocca alla Juventus, già praticamente prima nel suo girone. L'ostacolo è la Dinamo Zagabria, che fin qui è stata il materasso del girone stesso. È chiaro che insomma, mai come quest'anno tra primo e secondo posto nel girone c'è poca differenza, visto che le seconde, ci sono molte grandi squadre che si sono qualificate come seconde, tra City, Real Madrid, Bayern Monaco e altre ancora. E qui però, come ha detto Allegri, l'importante è vincere, così come ha vinto, lo sai, Federica Pellegrini. Federica Pellegrini, ti volevo anche su questo, no? Un bel successo. Beh, sai, ad un'altra latitudine rispetto a Rio de Janeiro, in Canada, Federica Pellegrini ritrova la voglia di essere una campionessa. Non è facile, a 28 anni, che in valore assoluto sono pochissimi, ma per chi fa questo sport da quando era bambino, proprio come Federica, ad altissimo livello, è un grande risultato che esprime anche i grandi sacrifici che ha fatto. Mondiale in vasca corta sui 200, medaglia d'oro, non lo vinceva da Shanghai 2011 e poi guida anche la staffetta 4% ad una medaglia d'argento che non avevamo mai visto. Poi ha detto: adesso mi diverto con i 100 stile libero, dunque che si diverta Federica. Allora grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 in Tutti Convocati, noi adesso ci fermiamo, sentiamo cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Roma, dal quartiere San Basilio, dove come sapete ieri c'è stata la rivolta di alcuni condomini che si trovano appunto all'interno di una palazzina nella quale sarebbe stata assegnata una casa popolare a una famiglia di marocchini. Hanno detto: i negri qua non ce li vogliamo. Ne parleremo con la presidente del municipio a tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo fatto il punto sulla crisi politica, abbiamo fatto il punto sui mercati con Monte dei Paschi che oggi strappa al rialzo un più 8%, abbiamo parlato di Siria e abbiamo parlato dell'arresto di un sindaco in Calabria. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Roma, ma non prima di aver dato una risposta ad un paio di ascoltatori che hanno espresso perplessità, e devo dire la verità, qualche perplessità ce l'ho avuta anch'io ieri quando all'annuncio della consulta che deciderà solamente il 24 gennaio sull'Italicum. Ebbene, la spiegazione la trovate ben fatta sul Sole 24 Ore di oggi in un pezzo a firma di Donatella Stadio, nel quale si dice tra le altre cose che la consulta sta attendendo il ricorso che arriverà dal Tribunale di Genova. Il rischio, andando prima ad un'udienza sull'Italicum, ossia sulla legge elettorale, è che ci si trovi a pronunciarsi sull'Italicum Italicum e poi a doversi ripronunciare di nuovo, modificando magari altre cose. E quindi si attende il 24 gennaio anche per questo motivo, oltre che per altri. Roma dunque, quartiere San Basilio, dove ieri c'è stata questa protesta di alcune persone per l'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di marocchini. Siamo in linea con Roberta Della Casa, che è presidente del quarto municipio, il municipio al quale fa riferimento San Basilio appunto. Buongiorno Della Casa, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Allora, la cronaca di ieri ci ha raccontato una cosa che ha colpito un po' tutto il paese, no? Delle persone che arrivano, una famiglia, tra l'altro lui un operaio, quindi persone che hanno sempre lavorato da quel che sappiamo, con la famiglia, con una famiglia con tre figli, di cui il più piccolo di un anno, che vengono cacciati con parole del tipo «i negri noi qua non ce li vogliamo». Che cosa è successo Della Casa? Allora, è successo effettivamente che una famiglia di origini marocchine è risultata assegnataria di un immobile di edilizia pubblica in San Basilio e nel momento in cui sono stati accompagnati nella loro nuova casa, quindi in quello che doveva essere un momento di gioia, effettivamente questo appartamento è risultato occupato senza titolo da altre persone. Abusivamente, in sostanza. Quindi. Esatto. Mm. Questa è purtroppo una situazione che su Roma è molto diffusa, situazioni di gente che ha effettivamente delle difficoltà, delle fragilità, che si trova di fronte alle scarse risposte che finora sono arrivate dall'amministrazione nella gestione degli alloggi popolari, si trovano a dover occupare degli appartamenti per avere un tetto sulla testa. Ora, non vogliamo alimentare quella che è una guerra tra poveri, sicuramente il sistema di gestione degli immobili pubblici va riportato a una situazione di legalità. Gli alloggi potrebbero essere sufficienti per tutti, gli alloggi disponibili. Della Casa, mi sembra di aver capito che c'è anche una sorta di racket dell'abusivismo, dell'occupazione abusiva delle case, ho capito bene? È possibile, purtroppo si verificano spesso queste situazioni dove c'è qualcuno che anche a fronte di un compenso ovviamente illecito segnala quali sono le abitazioni libere a chi ha necessità di un tetto proprio per occupare questi immobili. Ovviamente il discorso è molto ampio, l'amministrazione deve come sua responsabilità iniziare a far funzionare le cose in maniera legale. Roma Capitale in questi mesi si sta occupando di far scorrere le graduatorie e di verificare tutto quello che è il patrimonio al momento disponibile per dare risposte concrete all'emergenza abitativa. Quindi in questa direzione bisogna continuare a lavorare affinché la legalità venga rispettata e i diritti di chi ha bisogno riconosciuti. E poi c'è un problema specifico di San Basilio, che è una delle principali piazze di spaccio di Roma. Sì, San Basilio è una zona effettivamente del mio municipio molto delicata, perché è una zona che non ha sufficienti alternative culturali, centri di aggregazione che possano contrastare quello che è la vita di strada, la vita dell'illecito. È un quartiere delicato dove c'è una grossa insistenza di edilizia residenziale pubblica, quindi di persone che vivono anche un disagio legato all'economia delle proprie famiglie, e quindi è più facile in queste situazioni che ci si rivolga appunto all'illecito, alla criminalità. Bisogna in quella zona insistere creando alternative sane per far crescere le generazioni future in maniera sana, e questo è sicuramente un obiettivo di questa amministrazione, che in questo senso si sta già attivando in tal senso con iniziative e con la riqualificazione di alcune aree di quel quartiere di San Basilio. La ringrazio Della Casa. Devo chiudere, se ha da dire una cosa rapida, prego. Assolutamente, che la guerra tra poveri non giustifica l'illegalità e non giustifica forme di razzismo. Bisogna rispettare la legalità, chi deve avere casa deve averla e deve avere diritti riconosciuti. Questo in tutti i casi, senza che si faccia la guerra tra singoli cittadini. La ringrazio. Grazie Roberta Della Casa, che è presidente del quarto municipio, per essere stata con noi. E ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia, in Veneto. Saluto il consigliere regionale Riccardo Barbisan. Buongiorno Barbisan, benvenuto. Buongiorno a lei e grazie. Ne avevamo già parlato, è stata approvata in Consiglio regionale la legge che riconosce i veneti come minoranza linguistica. Barbisan, ma dai, su. Ecco, Perché lei parte da un presupposto sbagliato, probabilmente ha letto un giornale sbagliato. Noi ci siamo, abbiamo dato al Veneto la possibilità di aprire ad una minoranza nazionale, esattamente come avviene in Alto Adige, per coloro che lo vorranno fare. Questo in ragione del fatto che la provincia autonoma di Bolzano è riconosciuta autonomia ed alcune risorse proprio per tutelare e promuovere questa minoranza. Abbiamo la specificità di vivere tra due regioni a statuto speciale, crediamo che anche i veneti possano essere considerati una minoranza da tutelare e anzi da promuovere, e per questo motivo, da questo assunto, chiediamo anche di essere trattati come bolzani. Mi spiega l'effetto pratico di una cosa di questo genere? Ma l'effetto pratico è di applicare la convenzione del Consiglio d'Europa ratificata dallo Stato italiano nel 97, il 28 agosto del 97, a coloro che vorranno dichiararsi minoranza nazionale, cioè l'applicazione di una convenzione di diritto internazionale, sì, di un ente assolutamente riconosciuto, a coloro che lo vorranno fare. Ma cosa comporta in termini pratici? Cioè, io questo vorrei capire. Guardi, mi faccia qualche esempio. Ecco, allora, all'articolo 13 si dice: nell'ambito del sistema di istruzione le parti riconoscono alle persone appartenenti a una minoranza nazionale e non linguistica, noi di linguistica non ne abbiamo mai parlato, il diritto di creare e gestire i propri istituti privati di insegnamento e di formazione. Non so se voi conoscete il sistema delle scuole paritarie in Veneto, no? Il sistema, sì, delle scuole, sì, private, noi ne abbiamo, sì, soprattutto per i bambini più piccoli, una in ogni parrocchia. Ecco, e sostituiamo lo Stato nell'apprendimento dei bambini negli anni più, sì, piccoli, più tenera. Insegnandogli il Veneto, per esempio? No, assolutamente no, questo succederà solo e se chi aderirà alla minoranza lo vorrà fare, ma lei sa benissimo che neanche a Bolzano l'obbligo di insegnamento del Veneto esiste. Mi pare che, guardi, sia stato, sì, creato, sì, un caso, non del Veneto, un caso, in questo caso, sì, allucinante. Solo perché quando è il Veneto a lanciare proposte che parlano di indipendenza, di autonomia, si vuole cercare di ridicolizzare, mentre dalle altre parti d'Italia va tutto bene. Senta, viviamo con cinque regioni a statuto speciale che fanno quello, sì, che vogliono. In Friuli la sinistra organizza corsi di insegnamento facoltativi della lingua friulana e non c'è tutto il problema che c'è in Veneto, si vede, sì, che non riesco a capire. Senta una cosa, ma ci sono anche, è anche previsto, o avevo letto male, per esempio posti riservati a chi si dichiara della minoranza nelle istituzioni pubbliche? Questo succede in Alto Adige ed è una possibilità che succeda anche in Veneto. Dov'è lo scandalo, scusi? No, ma io sto facendo domande, mi scusi. Questa è una possibilità. Questo già avviene da 70 anni in Alto Adige, nessuno ha mai detto nulla. Potrebbe iniziare anche in Veneto, lo vedrei con favore. Qualche ascoltatore ci scrive, lei sa che abbiamo anche molti ascoltatori veneti, noi ci dice, ma quale sarebbe il Veneto da tutelare? Il veneziano, il veronese, il bellunese? Perché oltre ad essere dialetti diversi, sono anche persone diverse che vivono in luoghi diversi, con caratteristiche diverse, certo, no? Vede, ma come si insegna il friulano facoltativamente in Friuli e non si parla lo stesso friulano a Latisana e a Malborghetto, altrettanto potrà succedere in Veneto. Non credo che i veneti siano più stupidi dei friulani per non riuscire a risolvere questo problema. Guardi, non si parla lo stesso tedesco neanche tra Brunico e Merano, quindi è un problema che, voglio dire, anche questo mi sembra artatamente tirato fuori. Artatamente, lo chiedono gli ascoltatori, io leggerò la domanda. Ultima domanda, l'approvazione di questa legge regionale avrà un effetto pratico oppure no? Il problema più di tutti quelli di cui abbiamo parlato finora è questo, l'impugnativa da parte del governo, sempre possibile, e poi la discussione davanti alla Corte Costituzionale relativamente al fatto se è competenza della regione riconoscere al proprio interno una minoranza oppure se è competenza dello Stato. E qui come Regione Veneto ci costituiremo, cercheremo di portare le nostre buone ragioni e poi vedremo se lo Stato continuerà a essere sordo a ogni anelito di autonomia e indipendenza che questa regione ormai ha ben espresso anche nel voto per la riforma costituzionale. La ringrazio, grazie Riccardo Barbisan, consigliere della Regione Veneto. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Intanto ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia e andiamo in Sicilia, dove c'è stata una sentenza che ci ha colpito. Si tratta di due persone arrivate come scafisti che sono stati liberati perché sono scafisti occasionali e obbligati, non professionali per così dire. Parleremo con l'avvocato di uno di costoro. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli oggi: voto di fiducia sulla manovra, poi nel pomeriggio la direzione del PD, forse rimandata alla resa dei conti, ancora incerto se Renzi salirà al Quirinale oggi o venerdì. Intanto i tempi per il voto si allungano, la consulta deciderà a fine gennaio sull'Italicum. Voci poi smentite di una richiesta di intervento del Fondo di Risoluzione Europeo per Monte dei Paschi. Oggi il CDA, intervento statale che sembra più vicino. In Siria i ribelli si sarebbero ritirati dalla città vecchia di Aleppo, secondo la BBC, ma chiedono una tregua umanitaria di 5 giorni. L'Egitto ha consegnato alla Procura di Roma tutta la documentazione che la Procura di Roma aveva richiesto sul caso di Giulio Regeni. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. E mentre la rivista americana Time annuncia pochi istanti fa che la persona dell'anno, quella della storica copertina della quale si parla appunto ogni anno, è Donald Trump, noi continuiamo il nostro giro per l'Italia e andiamo in Sicilia. La vicenda riguarda due presunti scafisti che erano stati arrestati dopo uno sbarco a Pozzallo il 14 novembre scorso. Il Tribunale del Riesame di Catania ha disposto la scarcerazione. Perché? Perché sono scafisti occasionali e obbligati. Difensore di queste due persone era Massimo Garofalo insieme ad Elisa Simonelli. Garofalo, buongiorno. Buongiorno a voi. Che vuol dire questa cosa? Qualche ascoltatore ci dice, allora faccio una rapina occasionale. Beh, devo dire in effetti che un orientamento giurisprudenziale nuovo che forse tende a consolidarsi, accade questo, come vi è noto dalle nostre parti il fenomeno degli sbarchi di immigrati è molto frequente e quindi il nostro tribunale e poi il tribunale del riesame di Catania che è territorialmente competente affronta questi temi da diverso tempo. Osservando questo fenomeno dell'immigrazione abbiamo un po' tutti quanti gli operatori notato che i libici, che sono proprio gli organizzatori di queste traversate, i veri criminali, fanno affidamento sui migranti stessi per condurre i natanti. In breve, reclutano queste persone, magari quelle che parlano la lingua inglese, che sono capaci di guidare una barca, e dicono, bene, voi dovete pagare questa somma per fare la traversata, vi facciamo uno sconto se ci collaborate. Magari c'è un Kalashnikov puntato verso di loro, ci sono delle minacce molto chiare e allora a questo punto il poveraccio, pur di fare la sua traversata e provare ad arrivare nella terra dove magari pensa di vivere meglio, ottiene anche uno sconto. Quindi in sostanza questi sono persone che avrebbero comunque fatto la traversata, cioè come immigrati e però costretti dagli scafisti o appunto sulla base di uno sconto invece... Esatto, uno sconto sul prezzo, fanno la traversata, pagano meno, però finiscono col fornire un ausilio agli scafisti o meglio alle organizzazioni criminali. Perché poi i libici che accompagnano per alcune decine di metri questi natanti poi si rituffano in mare e lasciano la barca alla guida della quale poi si pone il migrante di turno che magari ha avuto esperienze dirette. È evidente dunque che non si può parlare di un di una condotta professionale se non occasionale, ed evidentemente il Tribunale del Riesame di Catania ha individuato questa nuova figura che sotto il profilo delle esigenze cautelari è importante, perché è evidente che non c'è pericolo di recidivanza per un soggetto che comunque vuole fare la traversata, arrivare nel nuovo territorio. Il suo obiettivo non sarà poi rimettersi alla guida di una barca per andare a fare... Ma rimanere in Italia o in Europa? Avvocato, certo. In 10 secondi, è la prima volta che c'è una sentenza di questo tipo? Allora, per quello che mi ha visto, io da circa 20 anni che faccio questo lavoro, credo di sì. Se poi altri tribunali del riesame o altri tribunali di altre parti d'Italia si siano pronunciati, onestamente io questo non lo so, ho provato a documentarmi, ma non ho trovato nulla. Ritengo che sia uno dei primi provvedimenti, non è una sentenza, di questo tipo. Ancora può essere impugnata per Cassazione dal Procuratore Generale, perché è evidente che si sta dando vita ad un orientamento giurisprudenziale che in buona sostanza e anche la possibilità di qualche alibi per gli scafisti veri. Comunque questo sarà sicuramente tema di discussione. La ringrazio Massimo Garofalo per essere stato con noi. Noi a chiudere e alla vigilia di questo fine settimana lungo ci occupiamo di sci, o meglio di questo fine settimana lungo che si apre con 7 milioni in viaggio secondo Federalberghi. Ponte dell'Immacolata coincide come sempre con l'apertura della stagione sciistica, 3 appuntamenti tra oggi, domani e dopodomani. Oggi con Dario Ceccarelli sentiamo Thomas Musner, che è il direttore generale di Dolomiti Super Ski. Sulle Dolomiti è tutto pronto, noi siamo partiti già da un mesetto a questa parte, i primi impianti hanno già avuto la possibilità di aprire le proprie porte a questa stagione invernale, sicuramente con il ponte di Sant'Ambrogio in arrivo adesso a ridosso di questi giorni saremo più pronti che mai. Piste perfettamente innevate, i principali collegamenti sono in funzione. Parliamo di circa 300 impianti che sono già pienamente operativi e oltre 500 km di piste di puro divertimento, quindi assolutamente pronti. Le previsioni come sono sia per questo ponte che anche per Natale? Le previsioni dal punto di vista meteorologico sono molto propizie, abbiamo delle temperature fredde, basse, in modo da consentire la preparazione delle piste con l'innevamento programmato. Sono previste delle bellissime giornate di sole, quindi sicuramente le condizioni migliori per sciare sulle nostre piste. Aspettate turisti italiani o da tutto il mondo? Beh, assolutamente i turisti italiani, che sono il nostro cavallo di battaglia, è il nostro mercato principale, quello nazionale, ma col fatto che siamo conosciuti a livello internazionale ci aspettiamo anche una buona frequenza da parte di turisti internazionali. Una volta la vacanza in montagna era soprattutto sci, sci, sci. Adesso mi sembra di capire che ci sono anche delle richieste diverse. Assolutamente sì, lo notiamo anche noi. Diciamo che lo sci resta ancora la prerogativa principale, quindi la prima motivazione per venire in vacanza da noi è lo sci. Si stanno affacciando adesso sul mercato delle nuove tendenze che non hanno ancora i volumi, la relazione è ancora ben più bassa rispetto al numero di sciatori che frequentano le nostre zone, ma che sicuramente possono essere un completamento per la vacanza. Mi riferisco a queste nuove tendenze sportive, le ciaspole piuttosto che lo sci da fondo, piuttosto che pellisti che si muovono anche nella natura, però sono tutte attività che richiedono in ogni caso la neve. Poi, che sia naturale o che sia fatta dalle macchine, la materia prima ci deve essere. Gli altri appuntamenti tra domani e dopodomani. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.